come reagisce l'organismo collettivo, il corpo planetario, la mente iperconnessa, sottoposta per 3 decenni alla tensione ininterrotta della competizione, dell'iperstimolazione nervosa, alla guerra per la sopravvivenza, alla solitudine metropolitana e alla tristezza. Incapaci di liberarci dalla scimmia che ruba la vita e la trasforma in permanente stress, come un drogato che non riesce mai a raggiungere l'eroina che pure gli danza davanti agli occhi, sottoposti all'umiliazione della disuguaglianza e dell'impotenza. Nella seconda parte del 2019 il corpo planetario è entrato in convulsione. Da Santiago a Barcellona, da Parigi a Hong Kong, da Quito a Beirut, folle di giovanissimi si sono riversate in strada a milioni, rabbiosamente. La rivolta non aveva obiettivi precisi, o piuttosto aveva obiettivi contraddittori. Il corpo planetario era preso da spasmi che la mente non sapeva guidare. La febbre è cresciuta fino alla fine dell'anno 2019. Poi Trump ammazzò Soleimani, il tripudio del popolo americano. Milioni di iraniani disperati scesero in piazza, piansero, promettendo una vendetta strepitosa. Non accadde niente, bombardarono il colpito. Nel panico tirarono giù un aereo pubblico. E così Trump disse tutto. Il gradimento nei suoi confronti saggia le stelle. Gli americani infatti si eccitano quando vedono il sangue e gli assassini sono spesso loro predilenti. Dunque, nazismo trumpista e miseria per tutti, e sovrastimolazione crescente del sistema nervoso planetario, era questa la morale della favola. Poi ecco la sorpresa, il capovolgimento, l'imprevisto che vanifica ogni discorso sull'inevitabile. L'imprevisto che stavamo aspettando. Conclusione. L'organismo sovraccitato del genere umano dopo decenni di accelerazione e di frenesia, dopo mesi di convulsione urlante, senza prospettive, chiuso in un tunnel di rabbia, di urla e di fumo, è finalmente colpito dal collasso. Caravan, suoni e voci dalla saletta di Macao. Attenzione, attenzione! Quello che sto per dirti è molto importante per il tuo corpo, per la tua testa, per la tua anima. Lo spazio in cui ti trovi è uno spazio liberato. Prenditi cura di questo luogo, ti prenderai cura di te stesso, di te stessa, perché tu sei parte di questo luogo, perché tu sei anche ciò che ti circonda. Sii gentile, questa è una macho free zone. Il razzismo, il sessismo e ogni forma di fascismo non abitano qui. E se sei testimone di atti di violenza, non stare a guardare. Prenditi cura di te e di chi ti sta intorno. Condizioni in cui l'immaginario domina completamente l'immaginazione. Attenzione, quello che sto per dire è molto importante. Per il tuo corpo, per la tua testa, per la tua anima. Lo spazio in cui ti trovi è uno spazio liberato. Prenditi cura di questo luogo, ti prenderai cura di te stesso, di te stessa. Perché tu sei parte di questo luogo. Perché tu sei parte di questo luogo. Perché tu sei anche ciò che ti circonda. Sii gentile, questa è una macho free zone. Il razzismo, il sessismo e ogni forma di fascismo non abitano qui. E se sei testimone di atti di violenza, non stare a guardare. Prenditi cura di te e di chi ti sta intorno. Ascoltando Radio Virus. Caravan. Suoni e voci della saletta di Macao. Dalla quarantena. Ciao Ami, come stai? Mi ci vuole proprio una vacanza. A chi lo dici? Magari in Grecia. Ma troverò qualcosa. Potrei andare a Rodi. Ma no. Kos, Mykonos. Ma no. Perfino Santorini. Figurati, andiamo a Lesbos. Klos, Moria, Camp. We'll be right back. Problemi di quarantena? Chi ha mangiato i bocconcini? Ascolta Radio Virus. Sei nervosa? Hai il ciclo? Hai la lacrima facile? Hai il ciclo? Hai voglia di cioccolato? Hai il ciclo? O forse no? Eh no, sono in quarantena. Oh my god! Quando i miei hanno una giornata sì, il mondo diventa il mio palcoscenico. E tu? E io no. Io nel senso sto a casa. Anche tu. Attenzione, quello che sto per dirti è molto importante per il tuo corpo, per la tua testa, per la tua anima. Lo spazio in cui ti trovi è uno spazio liberato. Prenditi cura di questo luogo, ti prenderai cura di te stesso o di te stessa. Perché tu sei parte di questo luogo, perché tu sei anche ciò che ti circonda. Sii gentile. Questa è una macho free zone. Il razzismo, il sessismo e ogni forma di fascismo non abitano qui. Sei testimone di atti di violenza, non stare a guardare, prenditi cura di te e di chi ti sta intorno. E tu febbraio, tornando da Lisbona, all'aeroporto di Bologna una scena in attesa. All'ingresso ci sono due umani completamente coperti da una tuta bianca con elmetto luminescente e uno strano arnese tra le mani. L'arnese è una pistola termometro ad altissima precisione che manda lucine violette tutti intorno. Si avvicinano a ogni passeggero, lo fermano, gli puntano la lucina violetta sulla fronte, controllano la temperatura, poi lo lasciano andare. Un presentimento. Stiamo attraversando una nuova soglia nel processo di mutazione tecnopsicotica.

prendersi cura di te e di chi ti sta intorno. In cui ti trovi è uno spazio liberato. Prenditi cura di questo luogo, ti perderai cura di te stesso e di te stessa, perché tu sei parte di questo luogo, perché tu sei anche ciò che ci circonda. Sii gentile, questo è un macho free zone. Il razzismo, il sessismo e ogni forma di fascismo non abitano qui. E se sei testimone di atti di violenza, non stare a guardare. Prenditi cura di te e di chi ti sta intorno.